Bentornati a Piedi Pagina, storia di musica. Ciao a tutte e tutti da Fred, dalla redazione di Vallun, www.radiovallun.info, e benvenuti al nuovo appuntamento di Note a Piedi Pagina. Facciamo subito una premessa: ovviamente non è mai bello parlare dei figli partendo dai loro genitori, perché alle volte ci si vorrebbe semplicemente lasciare alle spalle il passato, soprattutto quando noi siamo diversi da chi ci ha generato. Però per questa puntata di Note a Piedi Pagina, in cui la musica si fa racconto della storia e in un certo senso la storia si fa musica, forse vale la pena riprendere una storia familiare che ha veramente dell'eccezionale. Soprattutto questa storia familiare eccezionale vale la pena raccontarla, perché nel passaggio da una generazione all'altra il testimone è stato costituito dalla battaglia e dall'indignazione di fronte allo sfruttamento, l'oppressione e l'imperialismo. Punto di partenza quindi è il 1944, in gennaio, quando Adolfo Kaminski, un argentino di origine russa ma residente in Francia, per di più di religione ebraica, viene liberato grazie alle pressioni del suo consolato dal campo di concentramento e di transito di Drancy, dove la sua famiglia era stata rinchiusa per l'appunto come ebrea. I Kaminski si sono salvati per il rotto della cuffia, è inutile girarci intorno, chi era con loro era già in partenza verso Auschwitz e Birkenau e Treblinka. Ma piuttosto che ritornare verso il nord della Francia, dove i Kaminski erano residenti, Adolfo, che era un ragazzo di 17 anni in quel momento, decise di rimanere a Parigi e di impegnarsi nella resistenza, perché quello che è successo a lui possa non succedere a nessun altro. E al servizio della resistenza, lui che è un ragazzo di 17 anni mette le sue mani, che hanno veramente qualcosa di magico. Adolfo Kaminski diventa in quel momento il falsario della resistenza, producendo qualcosa, si stima naturalmente, come 3.000 documenti falsi, fra carte d'identità, passaporti, rilasciati a membri della resistenza, perseguitati politici in fuga e naturalmente a degli ebrei. Al momento della liberazione della Francia, Adolfo, con le sue mani magiche per l'appunto, viene arruolato dai servizi segreti francesi. Trovandosi però all'interno del servizio, come viene detto, Adolfo ha accesso a fonti di prima mano, per cui si rende conto immediatamente di quello che la Francia, il paese che era stato appena liberato dall'occupazione nazista, sta facendo nei confronti di quelle popolazioni coloniali, come venivano dette all'epoca, che avevano combattuto per la liberazione della cosiddetta madrepatria. A loro non veniva data la cittadinanza, figuriamoci l'indipendenza. Per cui Adolfo decide di dare le sue dimissioni e di mettere al servizio di una nobile causa, per l'appunto, le sue abilità di falsario. Inizierà a produrre documenti per gli ebrei che cercavano di emigrare in Palestina e soprattutto inizierà a produrre documenti per i resistenti algerini. Nel 1950 Adolfo Kaminski entra a far parte del Réseau Janson, una rete di militanti antiimperialisti francesi che dalla Francia collabora per l'appunto col Fronte di Liberazione Nazionale Algerino. Così sarà per tanti altri movimenti fino al 1971, quando entra in pensione. Per chi volesse scoprire qualcosa di più su Adolfo Kaminski, consigliamo il libro realizzato dalla figlia Sara Kaminski, Adolfo Kaminski, una vita da falsario, edito nel 2011 da Colle Edizioni. Noi però ci occupiamo di suo figlio che fa il rapper e si chiama Rocher. Je suis aigri par l'histoire, apprendre me fait mal à la tête, j'y arrive pas, ça m'embête. Je suis aigri par l'histoire, chaque pays a ses victoires, même s'il a eu ses défaites, mais pour cacher les défaites on nous raconte des histoires. Je n'ai pas de terroir, j'ai des tiroirs dans la tête, accroché comme une casquette avec des problèmes de mémoire. J'ai des problèmes de mémoire, du coup je me répète. 1-2-1-2, microphone check, 1-2-1-2, je pars. J'ai des problèmes de mémoire. La storia non ci racconta la storia, ce ne racconta la metà di quei fatti. L'altra metà si è fatta tagliare la lingua, il suo silenzio è un urlo. Nell'antro del sapere mancano dei pezzi, delle verità, delle versioni, un confronto e una memoria. La Francia ha problemi di memoria, conosce Malcolm X ma non conosce Frantz Fanon, non conosce l'FLN, conosce la parola black ma non noir. La sienne est comme un bombard, car dans ce monde qui brade qu'une seule facette, même l'histoire se veut exclusive, fluette et avare. L'histoire nous raconte pas l'histoire, elle nous raconte la moitié des faits, l'autre moitié s'est faite couper la langue, son silence. Era il 2006, un anno importantissimo, perché la Francia si trovava a fare i conti con le macerie neanche troppo simboliche di un anno di rivolte dei Balliers del 2005. Erano le rivolte alla Baglio del 2005 e avevano portato alla luce quelle fratture esistenti all'interno della società francese, di classe, etniche, che, di cui tutti avevano consapevolezza, per l'appunto fuori dalle grandi città, ma che, di cui si preferiva non parlare, in nome di un'identità nazionale che si voleva plurale e laica. Però queste rivolte c'erano state e, in vista delle elezioni dell'anno successivo, che si sarebbero tenute nel 2007, un certo Nicolas Sarkozy, allora ministro dell'interno, imperversava per il paese e per tutti i salotti televisivi, invocando il pugno di ferro contro coloro i quali si erano ribellati, che avevano danneggiato le città francesi e che evidentemente a sua detta non conoscevano i valori della Francia. In tutto questo cosa poteva pensarne Rocher? Lui, figlio di un resistente contro il nazismo e un resistente contro l'imperialismo, lui che era nato a Bab El Oued in Algeria da un padre argentino, ebreo di origine russa e una madre africana. Beh, diceva no, questo non mi piace, non è questa la Francia per cui mio babbo ha combattuto, non è questa la Francia di cui facciamo parte noi. Noi che siamo cresciuti figli dell'immigrazione, che siamo cresciuti nelle periferie di queste grandi città e abbiamo sentito sulla nostra pelle il peso della discriminazione. Per cui dal 94esimo dipartimento della Val de Marne, dove era cresciuto Rocher, decide insieme a Racal Lerecan, una poetessa e musicista francese, di firmare un grande album, Identité en crescendo, quella che è la testimonianza e il suo racconto della Francia e della questione dell'identità e della memoria, in cui ha mescolato i pop, jazz e le sonorità tradizionali della chanson française, proprio per raccontare in musica un'identità multipla, per l'appunto come quella della sua famiglia. La Marseillaise sifflait le drapeau sous les semelles, j'ai le regard crispé sur ce pays et ses querelles, le regard débridé, le pelage blanchi, je bégaye presque sans plus d'accent, les mêmes problèmes qu'il y a des décennies, pays des droits de l'homme, alors vive les femmes et sauvages, tués par des hommes, même tuant leur propre image, mais les chansons et les danses de résistance, dans leurs insultes intenses, embellissent et chantent la France. Mon père a combattu Vichy et collaboration, expert aux faux papiers, sauve les victimes de trahison. Agir et résister quand la patrie perd la raison. Il offre l'humanité sans prendre l'accord du président. La clandestinité à cause de ses appartenances, de ses combats menés pour mettre justice dans la balance. La jeunesse, la santé sont cloîtrés dans la résistance. Pas français, pas d'égoport. Identité en crescendo è una prima risposta. Di fatto è una risposta veramente di pancia, per quanto sia un album molto bello e molto articolato. Però è veramente una maniera con cui Rocher sbatte i pugni sul tavolo e quel tavolo cerca di ribaltarlo, perché non è quello il dibattito sull'identità che deve fare la Francia. Successivamente però Rocher ha articolato una riflessione molto più strutturata, cercando di dare sostanza a quella questione della memoria di cui lui parlava. In Francia si conoscono i Black, ma non si conoscono i Noir. Cioè è paradossale, si conoscono più le lotte antirazziste che si svolgono al di là dell'oceano, ma non si conosce quella che è stata la lotta antiimperialista della Francia stessa e dei suoi territori d'oltremare, come venivano detti. Per cui si mette alla ricerca di dischi, registrazioni, canti di lotta che provenissero dall'altro lato del Mediterraneo, dall'Algeria naturalmente, da tutti i dipartimenti e territori d'altremare, da tutte le colonie, ma anche dischi e canzoni che provenissero dalle officine di Francia, da tutti i luoghi in cui si era lottato, per costruire un bagaglio della propria memoria, un racconto di una memoria che non fosse quella rivendicata da Sarkozy e da quegli altri signori bianchi che stavano al governo. È in questa maniera che nasce nel 2018 un disco eccezionale e straordinario, Parle d'Amnée de la Terre, Des Voix de Lutte, 1969, 1980. I dannati e le dannate della terra, naturalmente nell'articolazione del francese non è venuto, è un disco potente perché costruisce veramente memoria. Si nous voulons faire Mélanésia 2000, c'est pour que les gosses sachent qu'il y a une culture dans ce pays, c'est pour que nos amis européens qui sont là sachent aussi que nous sommes des hommes. Nous sommes des hommes ayant une culture et cette culture, il faut la montrer. Si on ne la montre pas, on pense qu'on n'existe pas. Così racconta Rocher il suo lavoro all'interno del libretto di Parle d'Annea della Terra, questo disco raccolta pubblicato da Orcatra nel 2018, e dice: faccio parte di quella generazione che ha visto nascere il rap francese e dietro a questo il grande entusiasmo per questa musica dei figli della seconda e della terza generazione di immigrati. Io ho voluto scavare al di là del rap, frugare fra quegli artisti di lingua francese che hanno veicolato la poesia dell'urgenza, la poesia a fior di pelle. Questo progetto musicale di patrimonio risponde ad un bisogno: dare e ridare la voce alle nuove generazioni che crescono in Francia in assenza di ogni appartenenza, dimentichi della storia dei loro genitori nel paesaggio politico e culturale che loro attraversano crescendo. Io non so come sarà domani, ciò che so è che con la memoria noi possiamo sommare la forza e l'unione dei popoli di ieri alle diaspore e ai subalterni di oggi. Possiamo piazzarci al centro della storia che ci raccontano al fine di rompere con la logica dell'imperialismo. L'esclave pleure et maudit sa chaîne. Il voit comme dans un mirage son ciel et sa forêt lointaine. Chante pour calmer sa peine, sa vieille chanson africaine. Oh, oh, j'implore